Italia in controluce. Buongiorno a tutti, è il pomeriggio di Radio 24 e quella che va ad iniziare la seconda puntata di Italia in controluce tutti i giorni, lo ricordo, alle 6.30 e alle 13.30 sono racconti, reportage, storie, inchieste sulla società italiana. Lui è Renato Sarti ed è uno dei più importanti attori e registi del teatro di narrazione italiano. Il suo ultimo spettacolo, Chicago Boys, è in scena da alcuni giorni al Teatro della Cooperativa di Milano. È una durissima critica al liberismo selvaggio. Lo ha intervistato Alessandra Tedesco. Renato Sarti, autore, regista e attore dello spettacolo Chicago Boys. Il testo è di qualche tempo fa. Come era nata l'idea di questo testo? Il testo era nato da questa idea qui, dalla Gabanelli, del programma Report, per i tre. Cioè ci aveva chiesto di fare un video di 20 minuti, non di più, a me vengo storti, sul tema della liberalizzazione. Noi scegliemmo in quel caso soprattutto il tema della liberalizzazione dell'acqua. Nacque questo video che fu fatto, diciamo così, alla fine del 2005-2006, se non sbaglio, e in quell'anno noi stavamo dedicando la stagione, il Teatro Cooperativo ogni anno dedica la stagione a un tema, a un personaggio, cose del genere, dedicammo proprio la stagione H2O all'acqua. E quindi furono fatti questi 20 minuti che furono andati in onda alla fine del programma Report. E da qui è nato anche il testo teatrale che si chiama appunto Chicago Boys, dal nome di un gruppo appunto di economisti che erano in voga negli anni 70. Sì, più di un gruppo di economisti si potrebbe dire che è un movimento vero e proprio dal punto di vista economico, cioè il grande guru di questo movimento fu Milton Friedman, conosciuto da tutti quanti al mondo come quello che ispirò la politica economica della Margaret Thatcher, del presidente americano Ronald Reagan, ma non solo loro. I Chicago Boys, che non erano altri che studenti sudamericani che venivano, che andavano, frequentavano questo dipartimento di economia dell'Università di Chicago, provenienti da Buenos Aires, Rio de Janeiro, Santiago, poi venivano rimandati in patria con il compito, diciamo, di competere e non collaborare. Ecco, se potremmo riassumere quello che sono stati i moti principali del Chicago Boys e di Milton Friedman è: ogni intervento dello Stato nell'economia porta alla schiavitù ed è meraviglioso il sistema dei prezzi, basta lasciarlo fluttuare liberamente. Era un inno al liberalismo sfrenato. Sì. Beh, Che Guevara riassunse, diciamo, in maniera più significativa, mi sembra, questi motti qua, dicendo libera volpe in libero pollaio. E infatti nello spettacolo si parla molto di liberalizzazioni, ma in modo critico, cioè si critica questo modello economico. Perché? Beh, per due motivi. Uno, perché laddove è arrivato ha provocato vere e proprie razzie e disastri. Diciamo che i Chicago Boys muovono piede soprattutto per cercare di contrastare quello che era un movimento, un nuovo sviluppo economico e sociale che si stava sviluppando nel cono sud dell'America Latina, che era semplicemente un sistema economico non proprio di tipo sovietico rosso, comunista, però cercava di dare a tutti quanti, tutta la popolazione, istruzione, salari minimi, pensioni e cose del genere, cioè era uno stato di welfare, insomma. Ecco, questo mise in allarme gli Stati Uniti, ma soprattutto le grandi multinazionali, perché fra gli altri temi c'era anche quello della nazionalizzazione delle materie prime di questi paesi e delle industrie più importanti. Cioè si sarebbe verificato se questo nuovo sviluppo economico sociale si fosse, diciamo così, affermato, si rischiava che queste multinazionali perdessero i loro ingenti investimenti e soprattutto i loro ingenti guadagni. Parlo della General Electric, parlo della United Fruit Company e via avanti così. Quelle multinazionali in quei paesi dove agì per esempio Che Guevara. Quindi, insomma, i Chicago Boys sono nati come movimento di reazione ad un'economia, ecco, non prettamente capitalista. non capitalista, anzi un'economia che non era sovietica, diciamo così, non era proprio statale, però aveva degli sviluppi piuttosto interessanti dal punto di vista di quello che era la possibilità delle popolazioni povere, contadine, operai, eccetera, eccetera, di avere una vita più decente, detto in maniera molto, molto elementare, insomma, ecco. Il modello comunista però è fallito, il modello economico comunista. Il modello del liberalismo sfrenato, voi appunto lo criticate in questo spettacolo, c'è una terza via possibile? Ma prima di dare la risposta alla terza via, aggiungerei il secondo tema. Questo tipo di economia è sempre stato accompagnato da colpi di Stato, massacri a livello di massa. Non parliamo solo di paesi di destra, tipo il Cile, tipo l'Argentina, dove c'erano le giunte militari, ma anche della Cina, anche la Russia stessa. I principali, coloro che hanno, diciamo così, istruito Deng Xiaoping prima della piazza di Tiananmen, sono stati i consulenti più stretti di Milton Friedman. E quindi questa cosa che l'economia liberista sia nata in maniera democratica è una grande balla. Laddove si è imposto il modello liberista, per la maggior parte delle volte è stata imposta con la violenza. Questo è un dato. Una terza via, io spero sia possibile, è una via in cui, per esempio, come affermano grandi economisti, ma come afferma anche il direttore della USB, che non è un covo di comunisti ma l'Unione Banche Svizzere, afferma che la differenza fra il prodotto in sé e il lavoro intorno al prodotto rispetto alle speculazioni finanziarie che stanno avvenendo intorno adesso è troppo grande. Questo è uno dei disastri, uno degli elementi che hanno portato al disastro e alla crisi economica oggi. A Wall Street si pesca e si parla di Marx, non in covi comunisti. Un po' di sano, diciamo così, economia di Stato forse eviterebbe tutto questo disastro che sta succedendo, perché non mi sembra che il liberismo ci abbia portato in questi ultimi tempi, soprattutto dalla crisi del 2008, a una posizione molto bella. Se non sbaglio, sono stati spesi 15 trilioni di dollari per salvare le banche, le compagnie di assicurazione private, e nel frattempo sono 200.000 i contadini che si sono suicidati in India per la fame. Per mettere in scena, diciamo, questa feroce critica al liberalismo, lei mette sul palcoscenico un uomo in una vasca da bagno con l'acqua putrida e una donna. Che cosa rappresentano questi personaggi? Ma se vogliamo cercare un significato, l'acqua putrida è quel mare, quei fiumi, quei laghi che noi abbiamo inquinato, continuiamo a inquinare, che il mondo occidentale sta continuando a inquinare in maniera nefasta. Ricordiamoci che l'inquinamento è uno degli elementi più terribili, la terra sta gridando aiuto, no? per tutto quello che stiamo combinando dal punto di vista ecologico. E quindi diciamo che l'acqua nella quale sguazzo io, perché poi il capitalista di Chicago Boys sono io, sarebbe il mare putrido, il mondo come stiamo riducendo dal punto di vista dei ghiacciai che si sciolgono, dal punto di vista del Fukushima, dal punto di vista di tutto quello che sappiamo. La escort mia russa, Svetlana, invece rappresenta in qualche maniera il mio mondo antagonista, cioè è una sorta di rievocazione in formato mignon, la lotta che si scatena tra me e lei in 1:10 di spettacolo, una specie di rievocazione mignon della guerra fredda, cioè della guerra fra il mondo comunista e quello capitalista, fra la Russia dei tempi e gli Stati Uniti. Non dico come va a finire questa lotta, che è un finale tragico, però diciamo che è sulla scena a dire questa specie di scontro che rievoca questa Titanica, quello che ha contrassegnato, diciamo così, la fine del secolo precedente fino al crollo del muro, la lotta fra capitalismo e comunismo. Avete sentito la voce di Renato Sati, protagonista del Teatro Civile in Italia. Italia in Controluce termina qui, torniamo domani alle 6:30 su Radio 24.